Dimmi, Frigno. Se facciamo la band, bisogna decidere cosa facciamo. Sì, è vero, dobbiamo darci dei ruoli. Io faccio il chitarrista cantante. Gaga, gaga, gaga, gaga, wow. Forte, forte, forte. Allora io cosa posso fare? Quasi, quasi faccio il batterista. Così spacco tutti i tamburi. Fammi sentire, noia. Yeah, fighissimo. Ratones, ratototototototones, tones, spacchiamo tutto. Ratototones, spacchiamo tutto. Prossimamente, Frigo e Rogna fanno la band. Il gruppo. Amici del pulmino di pane, burro e rock and roll, sono le 7:30, seconda tornata. Benvenuti. La banda, come Frigo e Rogna. Anche voi volete partecipare? Basta vedere la luce. The band. The band. E la vedo la luce. Lampione crepuscolare spento. Aia. Aia. Sì, quella là. I have seen the light. Benvenuti nella puntata 188 di pane, burro e rock and roll. Questo si propone per fare l'oroscopo rock. Attendiamo. Scrivicelo via mail. Lei l'ho già salutata e allora saluto Fabio di Ravenna. Ci ascolta da poco ma già ci adora, vorrebbe i Sentenced a quest'ora, aia. Benvenuti, ne approfitto salutando Fabio per salutare anche tutti quelli che ci ascoltano da poco pochino. Restate con noi. Hare Krishna da Marchi da Cinesello. Amici di pane, burro e rock and roll, sono appena rientrato dalla malattia, mi siete mancati. Anche tu ci sei mancato. Ieri, scrive un altro sms, Max De Riu accennava al fatto di organizzare un autobus per andare a un festival scandinavo. È da megalomani organizzare un raduno surrealista in Svezia? Sì, un filo sì, anche un filo costoso. Non credo di potermelo permettere. Auguri a chi mi scrive che il 21 febbraio di 22 anni fa nasceva. Ma potevi firmarti, così ti facevamo gli auguri bene. Abbiamo Paolo che vorrebbe la patente da vero rocker numero 666 perché è un rocker da molto prima che nascesse la radio. Andavo a vedere gli Schiantos ancora quando li pagavano con le verdure. Ciao, Rocca Volontà Paolo. Li pagano ancora con le verdure. Tra l'altro, a questo proposito, per la festa del 1° marzo, se volete presentarvi con un po' di verdure, Fricca apprezza sempre. Ho impiegato un po' di tempo a capire questa, ma adesso che l'ho capita ve la leggo. La domanda riguarda gli studi milanesi di Rock FM. Ma gli studi milanesi in cosa si distinguono? Forse perché hanno le pareti impanate? Arrivava da Firenze. Gatta la dance, momento dance. Occhio voi che vi state facendo la barba in bagno, perché con Black Betty ci scappa, eh? Stop! Oh, Black Betty, Ram Jam! Thank you. she makes me sing. Bam a lam, oh, Black Betty. Bam a lam, oh, Black Betty. La colazione di pane, burro e rock and roll proseguirebbe servendo i compleanni del 21 di febbraio. Servizio in camera? Certo, anche volendo, alle radioascoltatrici però. Ma anche ai radioascoltatori. Lo fa lei. Soprattutto alle radioascoltatrici. Io faccio le radioascoltatrici. Compleanni del giorno, non me li inizia con una nodina? Una piccolina? Guardi, una sì, poesiolina. Avrei giusto individuato sì. L'ode all'almanacco del giovedì. Perfetto, beh, direi che ci sta, capita fagiolo. Se ti pare... un giovedì da svacco, non disperare, no. C'è l'almanacco, e puoi passare al contrattacco, se dalla tua hai l'almanacco. Fantastico, veramente prezioso, 21 di febbraio. Medaglia. Ce l'avrà la sua porca medaglia, Frick. Del 1925 nasceva Sam Peckinpah. Peckinpah, c'è un H finale. Sam Peckinpah. Peckinpah, regista, il mucchio selvaggio. Sì, Pat sì. Garrett and Bill the Kid. Il capolavoro, uno, certo. uno dei capolavori di questo regista eccezionale. Sonora, la colonna sonora. Che aveva una colonna sonora notevolissima di Bob Dylan. Sì. Laddove ricordiamo Knocking on Heaven's Door, bussando alle porte del paradiso. Una grandissima ballata internazionale. Sempre il 21 di febbraio del 1933, io proseguo, sì. Con Nina Simone, cantante, pianista, certo. Statunitense. Da noi forse conosciuta, ma in tono minore, famosissima invece negli States. 1949, nasceva oggi anche lui, Jerry Harrison, tastierista dei Talking Head. La chiusura invece la lascio a lei. Ah, bene. C'è un ultimo compleanno. Sì, vedo. Se la sente? Vedo, sì. Faccia pure, giovane. D'accordo, anche, del sì. 1980. Si è giovane, ma non mi sembra tanto rock. Ma se la redazione l'ha segnalato, io vabbè. Lo direi lo stesso. Allora diciamolo, sì. 1980, sì. 21 febbraio, nasceva Tiziano Ferro, cantautore pop sì. Italia, molto complimenti pop. Complimenti alla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll che ci fa perdere tempo a segnalare i compleanni di Tiziano Ferro. Vediamo come si giustifica. Ma non può Isacco non può parlare perché non ha un microfono. Ah, beh, perché avete messo Tiziano Ferro nell'almanacco? Vi sembra rock? Si chiama Ferro di cognome, non potevamo non metterlo. Il grande Tizian Iron. Alza la cresta, ragazzino. Hai capito? Isacco Rizzi alza la cresta. Hai capito? Bravo. Te la taglieremo. Il nostro Isaac Rizzi, lo stacanovista stagista. Che però adesso si va a comprare l'ultimo CD di Tiziano Ferro e se lo ascolta tutto il pomeriggio. Bravo, buon ascolto. La punizione così è tosta. Eh sì, se la merita. Alza viva la cresta. Tiziano, un saluto a Tiziano. Mitico. E me, che c'è? sono rozzo, sono grezzo. Citavo, maestro, eh. Walk This Way, Aerosmith. Saluto a Paolo che accende la macchina e partono gli Aerosmith. Medaglia, medaglia, medaglia. Perché io quando accendo la macchina a Gallarate non posso sentire Pane, Burro e Rock and Roll? Guarda che è dura la vita, eh. Che giochi strani, mannaggia. Va bene, tra l'altro non sento neanche Rock FM a Gallarate, se devo essere proprio sincero. Fino in fondo. Veloci, perché abbiamo da mandare la replica degli AC/DC con la bocca, ovvero Back in Black, la band fatta da noi di Pane, Burro e Rock and Roll, in tributo ai provini per diventare musicisti rock con la bocca. E vi ricordo essere sempre aperte le iscrizioni, eh? 335-100-7777. Amico, amica che stai ascoltando, diamo una svolta alla tua vita da musicista. Diventa anche tu musicista rock con la bocca. Basta che invii un sms con su scritto musica rock con la bocca, sì. Poi noi prima o poi ti richiamiamo. A proposito della possibilità di di produrre un chinotto noi, l'amico da Imola qui scrive: il nome è palese, Chinotto Rock. Ciao. Oscar è preoccupato invece, ma li facciamo noi i chinotti? Ragazzi, dai, basta, eh. Per favore. Il Savona Kendo organizza domenica questa un torneo. Vorremmo un folto pubblico, soprattutto di sbarbine, dato che il Kendo è uno sport di nicchia e Savona è la città del chinotto. Dovete aiutarci. Marco, siamo qua. La storia è che Savona è la città del chinotto, non sei il primo a segnalarmelo. Ci ragioneremo sopra. Tra pochissimo, AC/DC con la bocca, grazie alla replica di Spadino. Ma intanto Joe Cocker, I'm so glad I'm standing here today. Hai capito? There were times I remember had to fight just to hold my head up. Those times when even my friends tried to make a fool of me. There were things that my heart looked at that they just couldn't see. Some said I was hopeless. My tangled in the night. Strong hearts just keep going. That is why I'm still standing here today. I'm still standing here to be.

grazie Trevor! Supportiamo il metallo italiano! E si disigo la bocca, ma dove li sentite ste robe se non qua? Yeah! Could be wrong. You say you told me that you wanna hold me, but you know you're not that strong. I just can't do what I've done before. I just can't beg you anymore. I'm gonna lick your ass. Deserve me, but you know sometimes you lie. You say you're shaking and you're always aching, but you know how hard you try. Sometimes it gets so hard to care. Can't be this way everywhere. Rimiscelato. Most likely you gone your way. Che gli dà il tiro in più, capito? Eh? 7:56 minuti primi, stiamo per chiudere la serranda sulla prima ora di diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Un caro saluto però a Vispa, disperata, via mail, aria@radiorockfm.com. Vi scrivo solo per dirvi che non vi sto seguendo oggi perché sto lavorando da ieri a quest'ora, ininterrottamente. Inizio ad avere miraggi. Questo è schiavismo, cara Vispa. Il pensiero va comunque a te. Posso dire la frase, mamma che emozione, c'è la radiopromozione. Anche quest'oggi vi ricordo che da domani, in allegato con Panorama, continua la collezione delle pietre miliari del rock, gli album leggendari che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo. Da domani troverete in allegato con Panorama Abraxas, ovviamente di Carlos Santana, imperdibile. L'album leggendario, puro rock, ritmi caraibici, blues e psichedelia, un album capolavoro che ha reso Carlos Santana una superstar internazionale. Tra le chicche imperdibili di Abraxas, che titolo Abraxas per un disco, Oio Como Va, Samba Pati e la straordinaria cover del classico dei Fleetwood Mac, ovvero Black Magic Woman. Da non perdere domani in allegato con Panorama, Abraxas di Carlos Santana. Andate in edicola, prendetelo e ditelo che ve l'ha detto Pane, Burro e Rock and Roll. Di